L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, oggi abbiamo molta cronaca, purtroppo nerissima, c'è qualche polemica italiana e questa non è certo una novità, ma anche dall'Africa, dove il Papa si trova in visita dopo oltre 10 anni dall'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II. Questo ed altro nella puntata di oggi dell'ottavo giorno, che riassume le notizie, come sempre, principali dell'ultima settimana, da sabato scorso 14 marzo fino a ieri. E come sempre abbiamo pescato tra i servizi e le interviste che sono già andate in onda nei GR di Radio 24. Sabato. Ripartiamo da una notizia che era rimasta in bilico esattamente 7 giorni fa, quella dei medici rapiti in Darfur, tra cui anche un italiano. Dopo un palpitante, per certi versi anche angosciante, balletto di voci e smentite, sabato finalmente arriva la certezza della loro liberazione. Il servizio è di Cristina Balotelli. We are in good health. Sono liberi e al sicuro a Khartoum i 4 operatori umanitari di Medici Senza Frontiere, rapiti mercoledì sera nella regione sudanese del Darfur, tra i quali c'è anche l'italiano Mauro D'Ascanio, le cui prime parole sono state un ringraziamento a tutti per la liberazione. Nel confermare la notizia del rilascio solo dopo contatti diretti con gli ostaggi, il ministro degli esteri Franco Frattini ha assicurato che non è stato pagato alcun riscatto. Riscatti non ne sono stati pagati. Medici Senza Frontiere lo ha detto e lo ha ripetuto, a maggior ragione lo ripete il governo. Noi abbiamo avuto contatti con le autorità sudanesi e con i servizi di sicurezza sudanesi, che hanno escluso categoricamente tutto questo. Questa è la versione ufficiale in merito al riscatto, come avviene sempre nei casi di sequestri all'estero di nostri connazionali. Medici Senza Frontiere si è detta indignata per un atto che mette in pericolo la presenza degli operatori umanitari in zone di conflitto. Sulla scena internazionale in questi giorni un protagonista, a volte anche scomodo, è la conferenza dell'ONU contro il razzismo, la cosiddetta Durban 2, che si svolgerà a Ginevra dal 20 aprile prossimo. Lunedì l'Unione Europea prende una posizione piuttosto netta, che segue tra l'altro una scelta presa da qualche tempo dall'Italia. Sentiamo allora i dettagli con Roberta Pelegatta. Il documento preparatorio alla conferenza ONU sul razzismo, che si terrà a Ginevra dal 20 al 24 aprile, è stato corretto. Il comitato responsabile dei preparativi di Durban 2, dopo le proteste dell'Italia e la minaccia dell'Unione Europea di disertare la conferenza, lo ha reso più snello, rivedendo i punti più controversi. Nella dichiarazione niente più attacchi ad Israele per la sua politica di occupazione dei territori e niente più riferimenti al concetto di diffamazione religiosa, introdotto dopo le vignette danesi contro Allah e considerato da molti paesi come un limite alla libertà di espressione. Il nuovo testo si ispira a quello steso dall'Olanda e presentato dall'Unione Europea, in cui si condannano fermamente i conflitti interetnici e interreligiosi e ogni discriminazione, compresa quella contro gli omosessuali. Per le Nazioni Unite la nuova versione potrebbe costituire una solida base per i negoziati in vista della conferenza, ma un ampio consenso risulta lontano. I paesi musulmani contestano la scomparsa dei riferimenti al Medio Oriente e alla diffamazione religiosa e promettono di battersi sino alla fine contro quello che definiscono un documento americano. E allora, visto che stiamo parlando di Israele, andiamoci metaforicamente, perché sempre lunedì comincia a prendere forma il futuro governo Netanyahu. Manca ancora qualche pezzo nel puzzle, ma insomma sembra quasi che ci siamo. Sentiamo allora gli sviluppi con Cristina Balotelli e poi le parole invece pronunciate dal presidente del Senato, Renato Schifani, che nelle stesse ore si trova in Egitto. L'intervista è dell'inviata Elisabetta Fiorito. Tzipi Livni di Kadima ribadisce il suo pessimismo sulla possibilità di un governo di coalizione con il Likud di Bibi Netanyahu. Principale divergenza non superata tra i due partiti restano i negoziati di pace con i palestinesi. Netanyahu intanto si è accordato con il partito di estrema destra Israel Beitenu, che avrà 5 dicasteri, inclusi gli esteri, al suo leader Avigdor Lieberman. La seduta speciale del governo convocata dal premier Ehud Olmert per discutere dello scambio di prigionieri con Hamas, allo scopo di riportare a casa Gilad Shalit, è stata rinviata a domani. Decisione presa al rientro dei due negoziatori dal Cairo. Secondo fonti vicine ai mediatori, un accordo potrebbe essere raggiunto nelle prossime 24 ore. Presente al Cairo anche Ahmed Jabari, capo dell'ala militare di Hamas, responsabile della gestione del sequestro di Shalit e artefice della lista dei 450 detenuti per terrorismo che Israele dovrebbe scarcerare. In quasi 3 anni di sequestro a nessuno è mai stato permesso di vedere il giovane soldato, nemmeno alla Croce Rossa. Ho trovato il presidente Mubarak determinato e consapevole della difficoltà dello scenario palestinese-israeliano. L'ho trovato convinto convinto di andare avanti e in questa convinzione mi sono permesso di manifestargli la nostra piena vicinanza in questo sforzo. Mubarak non va lasciato solo, il tentativo che lui vuole porre in essere è quello di mettere assieme tutte le realtà palestinesi vigenti sul territorio per un governo di unità nazionale, quindi come dire no a un tentativo così coraggioso anche se complicato. Questa nuova svolta a destra di Israele potrebbe complicare in più la situazione? Mi auguro fortemente di no, mi auguro fortemente che questo governo israeliano si ponga in sintonia col tentativo di Mubarak. Io confido che il presidente Mubarak in questo tentativo possa andare avanti e possa sentire vicino a sé l'intero sostegno della comunità internazionale. A proposito del servizio di Cristina Balotelli che abbiamo sentito prima della voce del Presidente del Senato Schifani, non ci sono purtroppo ancora novità sulla liberazione del caporale israeliano Shalit, che ormai è nelle mani di Hamas da quasi 3 anni. Forse invece potrebbe cambiare il clima tra Stati Uniti ed Iran dopo lo storico, chissà, messaggio che giovedì fa Obama, che tra l'altro nello stesso giorno è protagonista di una travolgente apparizione nello show televisivo americano di Jay Leno. Sentiamo Valentina Furlanetto. 3 minuti su internet per superare 30 anni di conflitti basteranno, è la speranza contenuta in un video nel quale il presidente americano Barack Obama si rivolge direttamente all'Iran, al suo popolo, ma anche a chi lo guida, in occasione del Capodanno iraniano. In particular, I would like to speak directly to the people and leaders of the Islamic Republic of Iran. Vorrei parlare direttamente al popolo e ai dirigenti della Repubblica Islamica di Iran, ha detto Obama, riconoscendo implicitamente il regime degli Ayatollah con il quale la Casa Bianca non ha relazioni diplomatiche dal 1980. We have serious differences that have grown over time. Abbiamo gravi divergenze che si sono amplificate con il tempo, ha detto Obama. La mia amministrazione ha intenzione di condurre una diplomazia che tratti i problemi nel loro insieme e tenti di stabilire relazioni costruttive tra gli Stati Uniti, l'Iran e la comunità internazionale. Questo processo non passerà attraverso la minaccia. Cerchiamo al contrario un dialogo onesto che sia fondato sul dialogo reciproco. Anche voi, ha proseguito, avete però una scelta da fare. L'ottavo giorno. Domenica. In uno dei posti più belli d'Italia, in provincia di Ragusa, vicino ai monumenti del barocco e vicino anche ai luoghi poi trasformati in set per il Montalbano della televisione, purtroppo la cronaca brutalmente fa emergere un problema irrisolto da anni. Sentiamo i dettagli dalla Sicilia con Letizia Carrara nel GR delle 7 di lunedì. È stato in serata l'arresto per Virgilio Giglio, 45 anni, il custode del branco di cani che ieri pomeriggio ha aggredito e ucciso un bambino di 10 anni a lungomare tra Marina di Modica e San Pieri. L'uomo è adesso accusato di omessa custodia, omicidio colposo, malgoverno di animali e perfino resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che aveva avuto in custodia giudiziale dalla procura i randaggi, era stato già denunciato ad agosto scorso per aver lasciato scappare gli animali dal proprio giardino. Ciò che sarebbe accaduto, ipotizzano gli investigatori, anche ieri pomeriggio. Una quindicina di cani che, sfuggiti al controllo del custode, hanno aggredito dapprima un bambino di 9 anni, poi un uomo di 40, entrambi feriti in maniera non grave, e infine la piccola vittima di 10 anni. Il comandante Nicodemo Magri ha ricostruito così la dinamica. Verso le 12.50 la nostra pattuglia è intervenuta in località San Pieri, perché un bambino di 9 anni in bici era stato aggredito da un branco di circa 15 cani. Dopo i primi soccorsi, le nostre pattuglie si sono messe alla ricerca di questi cani, che purtroppo stavano già aggredendo un altro bambino. E nonostante l'intervento dei carabinieri che lo hanno strappato dalle fauci dei cani mettendolo in fuga, è deceduto poco dopo in ospedale. Quando succedono fatti del genere si ripete tristemente lo stesso copione, perché da una parte si piangono le vittime e in questo caso è un bambino, quindi la commozione è ancora maggiore, e intanto la politica dall'altra si fa una sorta di rimpallo delle responsabilità. Lunedì, a poche ore di distanza dai fatti tragici di Scicli, intervengono a Radio 24 il sindaco proprio del comune Giovanni 25 e il sottosegretario alla salute Francesca Martini. Sentiamoli. Il mio modo di vedere questa è una tragedia vera e propria, una tragedia annunciata. Perché siamo sempre là, l'assenza di leggi, anche se le leggi ci sono molto superficiali. Perché dice una tragedia annunciata? Però mi scusi, sindaco, se lei è primo cittadino di questa città, dice una tragedia annunciata, cioè lo sapeva, non avete i soldi per il canile, e però accidenti, cioè c'è morto un bambino di 10 anni. Mi riferisco in generale su tutto il territorio nazionale, sono delle tragedie, e questo è bene che si dica. cominciamo a parlare, a preventivare l'abbattimento anche degli animali, qualora si ritengono che sono animali pericolosi. Io resto esterrefatta dalle parole di questo sindaco, che dimostra profonda ignoranza sulle leggi di questo paese. Io parlo di amministrazioni che noi cerchiamo di sollecitare all'esercizio delle loro competenze, e quindi se parla di tragedia annunciata parla di una sua grave, gravissima assenza di operatività su una materia che è di competenza del sindaco. Il sindaco è massima autorità sanitaria sul territorio ed ha anche competenza sul benessere animale e sulla lotta al randagismo. Quindi, questo io devo dire attesto un centro-sud, in particolare una Sicilia, ricordo anche i gravissimi fatti di maltrattamento di cani, in particolare di animali in genere, a cui assistiamo quotidianamente nel sud, in particolare in Sicilia, e quindi prenderemo le nostre misure di contatto in settimana con l'assessore alla sanità della Regione Sicilia. Lei parla di responsabilità diretta addirittura, sì, del sindaco. Come funziona il controllo di questi animali che sono randagi? Ecco. Il sindaco ha competenza specifica in quanto maggiore autorità sanitaria sul territorio per quanto riguarda il randagismo. Il randagismo è una piaga del sud di questo paese, purtroppo in maniera eclatante. Il randagismo deve essere contenuto e anzi eliminato ogni qualvolta possibile in molte aree del paese. Il randagismo è praticamente assente attraverso l'operatività della pubblica amministrazione in collaborazione con i servizi veterinari del territorio. Quindi i cani vaganti, che in questo caso devo dire erano cani sequestrati dalla magistratura, che poi erano stati oltretutto affidati a un soggetto di cui verificheremo anche il titolo per un affidamento. Sottosegretario, ma su questo fronte ci sono altre due domande. La prima, il sindaco dice: io però per i canili non ho i soldi. E la seconda è: qua però è un atto della procura, è la procura che ha deciso di affidare 50 randagi ad una sola persona, peraltro evidentemente inaffidabile. Quindi c'è qualcosa che non funziona nei meccanismi. Se i cani vengono affidati a soggetti terzi è perché c'è assenza di servizi pubblici, che invece sono un dovere del sindaco. E le dico anche questo: noi abbiamo pile di richieste e anche di offerte che abbiamo fatto a comuni della Sicilia, tra cui anche comuni del Ragusano, in cui avevamo disposto finanziamenti, e questi comuni non hanno richiesto i finanziamenti che noi avevamo disposto per assenza di materiali di documentazione di cui noi ovviamente abbiamo bisogno per trasferimenti finanziari. Giovedì il GIP di Ragusa, Maurizio Rubino, convalida il fermo per Virgilio Giglio, che è accusato di concorso in omicidio colposo e resistenza a pubblico ufficiale. Ma due giorni prima, martedì, i cani randagi erano tornati a colpire. Il servizio di Raffaella Calandra. Aggredita dagli stessi cani che avevano ucciso un bimbo di 10 anni, assalita e sfigurata nello stesso giorno in cui il paese si preparava a dare l'addio al piccolo Giuseppe. A Scicli, nel Ragusano, in 72 ore una seconda persona, una turista tedesca di 24 anni, lotta per sopravvivere dopo essere stata azzannata dallo stesso branco non ancora catturato. Passeggiava sulla spiaggia Maria quando i cani l'hanno accerchiata e dilaniata. Terribile la scena, agli occhi del sindaco Giuseppe 25 e del suo autista in zona per sopralluoghi. Cercavamo di capire se effettivamente si potesse trattare di un corpo umano adagiato sulla spiaggia con attorno 8 cani. I cani hanno lasciato la preda e si sono avventati su di noi. Mentre alla ragazza è stato ricostruito il viso, nella contrada Pisciotto a Scicli gli abitanti spaventati si sono barricati in casa su invito anche delle autorità. Puntano il dito contro i mancati controlli sul responsabile di quei cani, Giglio, l'uomo poi arrestato. Contro chi innalza gli animali a idoli si è invece scagliato il parroco di Modica durante i funerali del bimbo. Ma quattro giorni dopo la sua morte una task force dà ancora la caccia a esemplari liberi, mentre i sindaci invocano più risorse contro il randagismo. Lunedì. Comincia in Austria quello che i media nazionali hanno ribattezzato il processo del secolo. L'espressione tutto sommato ci può stare, visti gli elementi davvero fuori dal comune di violenza e di accanimento, e anche perpetrati negli anni. La cronaca della prima giornata del processo con Roberta Pellegatta. Ha rapito la figlia, allora diciottenne, e l'ha segregata in un bunker di 11 metri quadrati, realizzato sotto casa. Senza finestre, quindi senza aria fresca e luce naturale, senza una doccia dell'acqua calda. Dai continui stupri sono nati nella muffa e nel sudiciume 7 bambini. Uno morto quasi subito a causa, sostiene l'accusa, dell'incuria del padre nonno. Ora Joseph Fritzl, 74 anni, è accusato di omicidio preterintenzionale, riduzione in schiavitù, violenza privata, sequestro di persona, stupro e incesto. Lui ammette le ultime tre incriminazioni, ma si dichiara non colpevole di omicidio e riduzione in schiavitù. Fritzl si è presentato al processo con il viso nascosto da una cartellina blu, non ha risposto alle domande dei giornalisti e non ha mostrato segni di pentimento. Oggi, nel secondo giorno di dibattimento, sempre a porte chiuse, verranno mostrate altre parti della testimonianza registrata della figlia Elisabeth, ora 43enne. Il processo è rapidissimo, si svolge veramente in pochi giorni, tanto che giovedì arriva già la sentenza, e intanto mercoledì Fritz, il grande accusato, si assume tutte le responsabilità, come racconta questo servizio di Cristina Carpinelli. Sono colpevole di tutti i capi di imputazione, così Joseph Fritz, il 73enne, accusato di aver sequestrato e violentato sua figlia Elisabeth per 24 anni, ha detto oggi di aver ammesso tutte le colpe che gli vengono imputate dopo aver visto ieri in aula il video della figlia ed essersi pentito. È successo in apertura della terza giornata del processo a St. Pölten, nella Bassa Austria. A sorpresa, Fritz si è riconosciuto colpevole di tutti i capi di imputazione, inclusi i più gravi, omicidio colposo di un neonato morto per omesso soccorso e riduzione in schiavitù. Alla domanda del giudice Andrea Hummer su come mai avesse cambiato atteggiamento, Fritz ha risposto: la testimonianza filmata di mia figlia. Poi è tornato con la mente al 96 e, riferendosi al figlio morto pochi giorni dopo la nascita, ha aggiunto: avrei dovuto fare qualcosa. Già in apertura del suo processo Fritz aveva ammesso i reati di stupro, incesto e segregazione della figlia Elisabeth, violentata e tenuta in uno scantinato per 24 anni. Da questa storia di orrenda violenza nacquero 7 figli. Fritz ora rischia l'ergastolo. La sentenza dovrebbe arrivare domani pomeriggio. E dunque giovedì, quindi in tempi rapidissimi, come abbiamo già detto, arriva la sentenza che non lascia dubbi o spazio a contestazioni. L'ultimato di questa vicenda terrificante con questo servizio di Cristina Balotelli. Colpevole, con verdetto raggiunto all'unanimità di tutti i capi d'accusa, Joseph Fritzl è stato condannato all'ergastolo con una sentenza lampo. Rispetto all'interminabile martirio inflitto a sua figlia Elisabeth, ripetutamente violentata e tenuta segregata in una cella sottoterra per ben 24 anni, Fritzl, che il prossimo 9 aprile compie 74 anni, sconterà la pena in un istituto psichiatrico per criminali. Lui ha subito accettato la sentenza. Secondo gli psichiatri ora è a rischio suicidio. In questa storia da incubo la realtà ha superato alla lunga qualsiasi immaginazione. Fritzl, un ingegnere di successo, ha rinchiuso la figlia diciottenne in una cella bunker nello scantinato della sua villetta, prima di raggiungere la quale bisognava passare da diversi corridoi e 8 porte con sistemi di chiusura di cui solo lui conosceva il codice. Niente luce naturale e poca aria. L'ottavo giorno. Martedì. Quella che è appena passata è stata l'ennesima settimana pregna dell'economia in Italia, ma non solo, anche negli Stati Uniti c'è stata tutta la polemica attorno ai bonus dei manager della AEG e il segretario al tesoro Geithner è davvero in grossa difficoltà, ha davvero vita durissima. Poi c'è Bruxelles, naturalmente, da cui arrivano segnali importanti, non tutti positivi se vogliamo, sul fronte economico. Cominciamo però dall'Italia, perché comincia soprattutto la CGIL a lanciare un allarme durissimo per il futuro, parla addirittura di 1 milione di disoccupati nei prossimi 3 anni, mentre martedì Berlusconi incontra Emma Marcegaglia, la presidente degli industriali, e nello stesso giorno Draghi pronuncia parole, come al suo costume, molto calibrate ma anche molto pesanti. Sentiamo allora Vincenzo Miglietta e poi Alessio Maurizi. È necessario un approfondimento su alcuni punti, abbiamo visto soldi veri, era quello che ci aspettavamo e su alcuni punti ci sono, ecco. È soddisfatta la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al termine dell'incontro di quasi 2 ore con il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, presenti diversi ministri dell'economia Tremonti, dello sviluppo economico Scajola, del lavoro Sacconi. Palazzo Chigi ha promesso tempi rapidi, già oggi o domani, ha detto il leader degli industriali, potrebbe arrivare un fondo di garanzia da 1,3 miliardi per le piccole e medie imprese. Il che significa, con le ponderazioni possibili, avere la possibilità di garantire per le piccole e medie imprese 60-70 miliardi di euro di crediti, quindi è una cosa molto importante, era la cosa che noi stava più a cuore. Il fondo di garanzia per dare liquidità alle imprese e poi dall'esecutivo l'innalzamento a 1 milione di euro della soglia di compensazione debiti crediti con l'erario. La Cassa Depositi e Prestiti metterà a disposizione 5 miliardi per finanziare la ricerca. Sì all'emendamento per una deroga del patto di stabilità per i comuni virtuosi per investimenti in infrastrutture. Restano in sospeso invece i nodi dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione e la proposta di detassare gli utili reinvestiti dalle imprese. Tutti gli indicatori, produzione, ordinativi, giacenze di magazzino, continuano a segnalare ritmi produttivi molto bassi. Il quadro dunque non cambia. Nell'audizione alla Camera il governatore della Banca d'Italia si allinea alle previsioni esistenti e parla di un 2009 attraversato interamente dalla crisi. Quanto alle banche, secondo Draghi gli interventi fatti finora hanno evitato il collasso, adesso però occorre fare chiarezza nei bilanci per la presenza dei titoli tossici. Draghi ha invitato gli istituti a utilizzare i Tremonti Bond, ma ha frenato sul possibile ricorso ai prefetti. È essenziale che l'analisi delle condizioni del credito a livello locale non sconfini in un ruolo di pressione sulle banche, che spinga ad allentare il rispetto di criteri di sana e prudente gestione nella selezione della clientela. Ritengo che debbano essere evitate interferenze politico-amministrative nelle valutazioni del merito di credito di singoli casi. E per alleviare le imprese, infine, Draghi dà un suggerimento al governo: saldare i debiti che le pubbliche amministrazioni hanno con le aziende, un fardello che vale il 2,5% del PIL. Giovedì arrivano gli ultimi dati, davvero da allarme rosso, sulle esportazioni italiane. Valeria De Rosa. Un risultato davvero brutto, per molti preoccupante. A gennaio le esportazioni sono calate del 26% circa rispetto allo stesso mese del 2008, mentre le importazioni sono scese del 24%. Il saldo è negativo per oltre 3 miliardi e mezzo. Il settore più in difficoltà è quello dei mezzi di trasporto, l'auto in particolare, con un crollo del 49% rispetto a gennaio di un anno fa. Le imprese che esportano sono quelle che più risentono degli effetti della crisi e sono anche quelle che più pagano il razionamento del credito da parte delle banche. A dirlo un'indagine dell'ISAE condotta su 7.000 aziende. A febbraio l'istituto ha fatto 50.000 interviste per capire come se la sta passando il mondo imprenditoriale fatto da tante PMI. I dati non sono confortanti, come spiega Alberto Maiocchi, presidente dell'istituto. Il 40% degli intervistati riconosce che c'è stato un peggioramento delle condizioni di accesso al credito. Il dato rilevante è che l'8% degli intervistati hanno visto rifiutato il loro accesso al credito, il 6,6% perché le banche non hanno concesso il finanziamento e l'1,4% perché le condizioni richieste dalle banche erano particolarmente onerose. Sempre giovedì a Bruxelles sono riuniti i capi di Stato europei. Da una parte arriva un loro no deciso, secco ad Obama, che chiedeva nuovi interventi dell'Europa in campo anticrisi. Dall'altro lato invece l'Unione Europea dice sì a più soldi per progetti energetici. Da Bruxelles il servizio di Gerardo Pelosi. Un'Europa che si muove in ordine sparso per contrastare gli effetti della crisi finanziaria trova l'accordo sull'utilizzo di 5 miliardi di euro di fondi comunitari su energia, banda larga e sviluppo rurale. E questa è la decisione assunta ieri dal Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo dei 27 Paesi. Di questi 5 miliardi, 360 milioni sono destinati a progetti del nostro Paese, soprattutto nel settore dell'energia, dal gasdotto Galsi, che collegherà l'Algeria e la Sardegna, al gasdotto tra la Sicilia e Malta. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha commentato il Premier Silvio Berlusconi al termine della cena di lavoro. Questa mattina il Consiglio europeo affronterà le misure contro la crisi. Il Premier italiano ha chiesto e ottenuto dagli altri colleghi che ogni Stato membro illustri le misure nazionali per sostenere l'economia. L'Italia ha già fatto molto e in maniera molto creativa, ha commentato Berlusconi. Il vertice europeo si è concluso ieri a Bruxelles e, tracciando un bilancio, Berlusconi ha anche detto che il piano casa, in attesa poi di vederlo concretamente discusso nel Parlamento italiano, potrebbe addirittura essere un modello per l'Europa. Intanto però brutte notizie ieri dall'Istat, che ha fornito gli ultimi impietosi dati sulla disoccupazione. Paolo Piacenza. Si ferma la crescita dell'occupazione e continua per il quarto trimestre consecutivo la crescita della disoccupazione. La fotografia che emerge dai dati dell'Istat sugli ultimi tre mesi del 2008 restituisce un quadro preoccupante per il lavoro, soprattutto se si tiene conto delle previsioni che indicano tra 2009 e 2010 un appesantimento della situazione. Il tasso di disoccupazione tocca il 7,1% nel quarto trimestre 2008, in crescita rispetto al trimestre precedente e rispetto anche al periodo ottobre-dicembre 2007, un aumento che si traduce in 120.000 disoccupati in più. Su base annua la disoccupazione 2008 raggiunge così il 6,7%, interrompendo un trend di riduzione annua che durava dal 1999, in pratica 186.000 persone in più in cerca di lavoro nel giro di un anno. Ad essere colpiti maggiormente sono gli uomini. A fine 2008 i disoccupati di sesso maschile sono 98.000 in più, di cui ben 73.000 per perdita di lavoro. Anche i dati sull'occupazione volgono al brutto. Tra ottobre e dicembre 2008 il numero degli occupati si posiziona ai livelli più bassi da 13 anni, con un calo dello 0,2% sul trimestre precedente. Mercoledì. Benedetto XVI è in Africa ormai da un giorno, dopo oltre 10 anni dall'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II, il pontefice torna nel continente nero. Ma fin dalla partenza da Roma Ratzinger lascia il segno con le sue dichiarazioni. Sentiamo allora Adriana Fracchi e poi l'inviato in Camerun Carlo Marroni. L'epidemia di AIDS non si può superare con la distribuzione dei preservativi, che anzi aumentano i problemi. Lo ha detto oggi Benedetto XVI in volo verso il Camerun per il suo primo viaggio apostolico in Africa. Per il Papa serve un comportamento umano morale e corretto e una grande attenzione verso i malati. Bisogna soffrire con i sofferenti, ha detto. Parlando con i giornalisti, Ratzinger ha risposto anche ad una domanda sulla sua presunta solitudine dopo la crisi scoppiata in seguito alla revoca della scomunica ai vescovi lefebvriani. Non mi sento solo in alcun modo, ha detto Benedetto XVI. Ogni giorno vedo i miei collaboratori, i vescovi. E ha ricordato che proprio in questi giorni sono venuti a trovarlo anche dei suoi amici tedeschi. Il Papa ha poi lanciato un appello alla solidarietà internazionale perché non lasci sprofondare l'Africa sotto il peso della crisi economica e ha ribadito che il mondo della finanza e dell'economia devono ritrovare la centralità dell'etica. Questa crisi economica, ha osservato infatti il Papa, è un prodotto di un deficit dell'etica e ha annunciato che anche di questo parlerà nella sua prossima enciclica. È una tempesta politica quella che accompagna l'avvio del viaggio del Papa in Africa che durerà fino a lunedì prossimo. La presa di posizione di Ratzinger contro il preservativo nella lotta all'AIDS ha scatenato reazioni durissime di governi e organizzazioni non governative dalla Francia, la Germania, la Spagna al Belgio. Ma la critica più dura arriva dal commissario dell'Unione Europea agli aiuti umanitari, che ha ribadito come il preservativo sia essenziale nella lotta all'AIDS, una lotta che vede l'Unione impiegare ben 300 milioni di euro ogni triennio. Il Vaticano smorza leggermente le proprie posizioni e cambia qualche aggettivo qua e là, ma la sostanza resta. Il portavoce padre Lombardi deve mettere addirittura un comunicato ufficiale in risposta agli attacchi. Le polemiche oscurano di fatto buona parte della visita del Papa, che in Camerun sta riscuotendo un grande successo. Le notizie che arrivano dall'Africa in questi giorni non riguardano soltanto il viaggio del Papa. Ricordiamo invece quello che succede martedì con Paolo Piacenza in Madagascar. Il golpe è stato consumato in Madagascar. Da ieri il leader dell'opposizione Andry Rajoelina ha assunto i pieni poteri ricevuti dai militari cui il presidente uscente Marc Ravalomanana li aveva a sua volta trasmessi al termine di un lungo braccio di ferro. Dopo due mesi di aperto conflitto politico punteggiato da atti di delegittimazione reciproca e da violenze che hanno provocato oltre 130 morti, la battaglia tra il presidente imprenditore Ravalomanana e l'ex sindaco ed ex DJ Rajoelina si è conclusa nel giro di due giorni grazie proprio all'intervento dell'esercito. I militari hanno preso il controllo della capitale e hanno assediato il palazzo presidenziale dopo un'iniziale dichiarazione di difesa a oltranza seguita da un cenno tardivo di disponibilità al dialogo. Ravalomanana ha finito per cedere di fronte alle pressioni della piazza schierata con l'opposizione e ha lasciato il potere ai militari che lo hanno quindi trasmesso a Rajoelina. Il nuovo leader ha il compito di convocare le elezioni entro 24 mesi, ma la palese violazione della Costituzione rischia ora di provocare critiche e reazioni da parte della comunità internazionale, che potrebbe sospendere gli aiuti umanitari al paese. Giovedì la presidenza ceca di turno dell'Unione Europea definisce colpo di Stato quello che è avvenuto in Madagascar, anche se poi la stessa Unione Europea ha deciso di mantenere un approccio prudente, queste le testuali parole usate dalla presenza ceca, in attesa di vedere poi come si evolverà la situazione. Torniamo invece al viaggio del Papa, ecco la cronaca di giovedì, sempre di Carlo Marroni. Non ha usato giri di parole, Benedetto XVI davanti ai 60.000 fedeli dello stadio della capitale del Camerun. Non fatevi ingannare, ha detto, da chi cerca di imporre il regno del denaro disprezzando i più indigenti. Dal cuore dell'Africa che soffre gli effetti della crisi occidentale, la Chiesa Cattolica rilancia un allarme antico quanto il colonialismo. Le multinazionali, afferma il documento preparatorio del Sinodo africano, continuano ad invadere gradualmente il continente per appropriarsi delle risorse naturali, schiacciando le compagnie locali con la complicità dei dirigenti africani. Inoltre recano danno all'ambiente e impongono gli OGM. Ma il Papa, visitando un centro di riabilitazione per disabili dove ha abbracciato i malati, ha affermato che la Chiesa Cattolica è impegnata in una lotta efficace contro l'AIDS e le altre epidemie. Ma un altro grande tema è stato affrontato ieri dal Papa nell'incontro avuto nella mattina con i rappresentanti della comunità musulmana. Una vera religione, ha detto, rifiuta tutte le forme di violenza e totalitarismo, non solo per principi di fede, ma anche in base alla stretta ragione. Ieri Benedetto XVI dall'Angola ha aperto un altro fronte di discussione, perché dopo le polemiche sull'uso del preservativo, ieri da Luanda ha detto e ha condannato, soprattutto senza appello, il diritto all'aborto. L'ottavo giorno. Giovedì. Da due giorni possiamo dire che nel calcio abbiamo ancora per fortuna un'italiana in corsa nelle coppe europee. Infatti l'Udinese, pur sconfitta, vola ai quarti di finale dell'UEFA ed è una qualificazione storica. Sentiamo la cronaca di Massimo Di Scienza. Teniamocela stretta questa Udinese piccola piccola, ultima rappresentante dei moicani del calcio italiano, per il resto estintisi dall'Europa. Un traguardo storico per i friulani, i quarti di finale in UEFA conquistati nel gelo di San Pietroburgo. Sì, grazie al 2-0 dell'andata sullo Zenit, ma anche per merito di una condotta prudente nel primo tempo e più battagliera nel secondo. Dopo aver subito l'1-0 da Timoshuk dopo mezz'ora, un gol buono per mantenere il pathos giusto da sfida ad eliminazione diretta, l'Udinese è uscita alla distanza, ammaestrando la multinazionale finanziata dai petrolieri russi e sfiorando più volte il pareggio, che forse sarebbe stato il risultato più giusto. Ma né per Di Natale né per Quagliarella era serata, con un Malafiev portiere avversario in stato di grazia. Per il resto pochi brividi, se non di freddo, neanche nel momento migliore dello Zenit. Ieri ci sono stati i sorteggi delle coppe europee, all'Udinese è andato veramente l'avversario peggiore, cioè il Werder Brema. Naturalmente grande interesse anche per i sorteggi di Champions League, dove gli italiani sono fuori purtroppo dagli ottavi. Questi gli abbinamenti: Liverpool-Chelsea, Barcellona-Bayern-Monaco, Manchester United-Porto e Villarreal contro Arsenal. In settimana in realtà più del calcio tiene banco la Formula 1, perché entrano in vigore delle nuove regole che per la verità scontentano tutti e ci saranno forse anche delle rappresaglie, chi lo sa. Ci racconta tutto Dario Ricci. Io avrei cercato di favorire chi vince più Gran Premi, però è fuori dubbio che uno che per esempio vince 6 Gran Premi e poi non ne vince altri, è giusto che vinca un mondiale contro uno che ne ha vinti 4 e magari tutte le altre gare è arrivato? Secondo me no. I dubbi di Giancarlo Minardi, decano dei costruttori della Formula 1, fanno il paio con la preoccupazione del presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo. La Federazione Internazionale vara la rivoluzione, in vigore già dal mondiale che scatterà il 29 marzo a Melbourne. Il titolo sarà assegnato al pilota che avrà vinto più gran premi, anche se avrà ottenuto meno punti in tutto il mondiale. Un criterio che nel 2008 avrebbe garantito l'iride a Massa, pure distaccato di un punto dal campione Hamilton. Una scelta, quella della FIA guidata da Max Mosley, che fa la gioia del patrono del Circus Eccleston e boccia le proposte dei costruttori. E dal 2010 via la Formula 1 low cost, con i team che rispetteranno i 33 milioni di budget che avranno maggiore libertà di sperimentazione tecnica. Una rivoluzione che arriva nel giorno in cui, dopo 16 anni, Jean Todt dà il definitivo addio alla Ferrari. La Formula 1 volta pagina per davvero e il futuro è tutto da scrivere. Venerdì. E chiudiamo con la politica italiana. Come sempre la scelta è difficile, perché insomma ci sono tante notizie, grandi, piccole, alcune laterali ma comunque interessanti. A mio giudizio la vicenda politica più significativa, escludendo naturalmente poi tutta la complicata questione economica, riguarda quello che avviene dentro la maggioranza, perché si avvicina il congresso di fondazione del Partito delle Libertà, quindi della fusione di AN e Forza Italia, e intanto sul tema della sicurezza e degli immigrati emerge una fronda. Il bersaglio è la Lega. Sentiamo da Roma Andrea Viali. Silvio Berlusconi interviene per bacchettare la Lega e arginare le polemiche nella maggioranza dopo la lettera firmata da 101 deputati del PDL contrari ad alcune misure del pacchetto sicurezza, caro proprio al Carroccio. Ne condivido i sentimenti, ma quella lettera nasce da un equivoco. Non è vero che vogliamo obbligare i medici a denunciare i clandestini. Io comunque non ho nessuna obiezione a modificare la legge, spiega il Premier, che aggiunge poi di non aver mai condiviso anche l'idea delle ronde volute dagli alleati leghisti. I nostri interlocutori della Lega sono interlocutori esigenti, che cercano sempre di battersi per le loro idee. Qualche volta possiamo dire di sì, qualche altra volta diciamo di sì con difficoltà, qualche altra volta diciamo di no. Se dovessi da questa vicenda uscire un suggerimento, sarebbe quello di dire ai nostri amici della Lega di non volere sempre tutto. Berlusconi è un amico, alla fine un equilibrio lo troviamo, commenta senza scomporsi il leader leghista Bossi, il quale dice poi di non poter escludere che le parole del Premier siano effetto di pressioni nel PDL in vista del congresso. La lettera dei 101 è il sussulto tardivo di voci libere, commenta invece dall'opposizione Soro del Partito Democratico. È anche la conferma che non era infondata l'indignazione nostra, quella dei medici, della Chiesa, del volontariato, per una norma disumana che ha il sapore antico e odioso delle leggi razziali. E poi c'è anche un altro tema, che questo spinoso e per fortuna l'onda emotiva legata alla vicenda di Eluana si sta stemperando. Parlo della questione del testamento biologico. Infatti per la settimana prossima Schifani non ha escluso la possibilità, peraltro chiesta dal Partito Democratico, di adottare al Senato i voti segreti. Sentiamo invece il servizio di Anna Rita D'Ambrosio alla vigilia dell'inizio della discussione al Senato, che parte mercoledì. 3.000 correzioni al testo, emendamenti anche sostanziali e che confermano la contrapposizione granitica tra i due schieramenti sui nodi caldi del provvedimento. In vista dell'avvio della discussione il 18 marzo, la parola d'ordine sembra essere compattezza, anche nel PD, che ha ricucito le divisioni proponendo 173 modifiche, comprensive delle 6 richieste da Rutelli. Nessuna modifica sostanziale da parte della maggioranza, mentre il testo è da rivedere completamente secondo i radicali, che hanno presentato 2.500 emendamenti. L'articolo 3 resta quello più spinoso, afferma che i trattamenti di nutrizione e idratazione artificiale sono forme di sostegno vitale e dunque non sospendibili. Fermamente contrario Beppino Englaro, che ieri è tornato a parlare in esclusiva al TG1. E dal momento che le società scientifiche si sono espresse riguardo l'alimentazione e l'idratazione forzata, che è una terapia, non credo che nessuna legge possa impormi una terapia del genere. Il tempo è pochissimo, quindi non possiamo raccontarvi tutto di questa settimana politica, però voglio citare quello che è accaduto nei giorni scorsi alla Sapienza con gli scontri e poi il commento del ministro Brunetta, che ha definito gli studenti dell'Onda guerriglieri. Poi sono diventati 4 ragazzetti in cerca di sensazioni più o meno violente. Ci manca soltanto l'ottava notizia della settimana, che ci riporta a Bruxelles grazie a Marta Cagnola. Possiamo naturalmente sorridere, ma sotto sotto, almeno per quel che mi riguarda, c'è di che rattristarsi. Signorina Silvani! Oh, pardon. Signorina Silvani in Calboni! Io? Sì. Eletta a estrarre dall'urna il nome dell'eletto, la signora Calboni, ex signorina Silvani. Ed ex infelice grande amore di Fantozzi. Altro che signorine, sposate o nubili, oggi siamo tutte signore. Bruxelles non permetterà più che un europarlamentare venga qualificata come Mrs. o Miss, o Madame e Mademoiselle, signora o signorina, connotazione sessista offensiva per i puristi dell'uguaglianza lessicologica. Lo stabilisce l'opuscolo Gender Neutral Language, che fa anche di più. Cassa una lista di parole che descrivono professioni, fireman, policeman, salesman, ma anche hostess. Il suffisso S è considerato discriminatorio. Cosa ne pensa Mario Cannella, il lessicografo che cura la revisione del vocabolario Zingarelli? Intanto non è una novità, perché già il fascismo ai tempi aveva queste manie di regolamentare la lingua per decreto. Sono esempi in alcuni casi ridicoli, ma l'Unione Europea tende a farlo in tutti i campi. Credo che i nostri formaggiai sanno bene che gli arrivano indicazioni su quanto devono essere alte le piastrelle nei luoghi dove si conservano i formaggi, la discussione sulla banana che deve avere un'arcuatura di un certo tipo. Credo che occorra fare attenzione attenzione, da un lato a evitare che dentro i dizionari, e quindi negli articoli, nello scrivere, ci sia quello che si chiama forme di sessismo, cioè dispregio nei confronti del mondo femminile, dall'altro di evitare gli eccessi del politicamente corretto, che sono quelli che insomma nei vari campi conosciamo. Ecco, non so che successo potrà avere, probabilmente nei loro documenti sì, nella lingua nostra credo che il processo andrà avanti come sta andando avanti adesso. Ora non possiamo che attendere che Bruxelles abolisca anche l'età. Sì, ma suo marito è d'accordo, cioè lo sa. Ma noi siamo una coppia moderna, siamo larghi di vedute. Le giochi sul 27, Fantozzi. 27. Sì. Il numero dei miei anni. Abbiamo finito anche per oggi con l'ottavo giorno. Ricordo la mail per chi ci vuole scrivere: ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio come sempre in regia Valerio Rocchetti e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23.